Buongiorno, buongiorno. Grazie per avermi invitato. Partiamo un po' dal principio perché Book Dealer è una realtà recentissima, nata in aprile 2020, quindi ti chiedo che cos'è per chi non lo conoscesse e soprattutto da che cosa nasce l'idea. Allora, preciso intanto che ad aprile 2020 abbiamo iniziato a pensare all'idea, ma abbiamo lanciato il sito, quindi esiste effettivamente dal 27 di agosto, quindi ha tipo 3 mesi in realtà di vita propria. L'idea nasce dal fatto che durante il primo lockdown, ormai purtroppo possiamo dire il primo lockdown, c'era sempre più difficoltà di reperimento dei libri, le librerie dovevano stare chiuse, molte si erano organizzate per fare le consegne a domicilio. Poi quando anche Amazon a un certo punto ha smesso di spedire i libri, perché erano considerati beni non necessari, era molto difficile, a meno che tu non conoscessi un libraio o una libraia a cui scrivere per farti mandare i libri a casa, era molto difficile insomma di trovare libri e comprare libri. Quindi c'è venuta l'idea di creare una piattaforma che mettesse in comune il lavoro delle librerie del territorio, permettendo quindi loro di continuare a vendere anche approdando sull'online e consentendo agli utenti di avere uno strumento per comprare libri dalla propria libreria indipendente di fiducia senza doversi per forza recare fisicamente in negozio. Qual è stata l'esigenza primaria che ha mosso la nascita di questa realtà, oltre ovviamente alla situazione appunto di lockdown in cui tutti e tutte ci trovavamo, però cosa vi ha mosso fortemente? Principalmente la mancanza di una piattaforma del genere, perché non esisteva nessun sito dove andare a sostenere effettivamente le librerie indipendenti, perché come ho detto siamo tutti abituati ai noti store online dove puoi comprare qualsiasi libro senza muoverti da casa, ma questi store online sono diciamo, negozi e-commerce che non vanno a favorire le piccole imprese e quindi le librerie del territorio. Serviva uno strumento che potesse essere, diciamo, come user experience all'altezza di quelli che sono i grandi store online, ma che allo stesso tempo desse importanza al lavoro e alla sopravvivenza delle librerie indipendenti del territorio. Nella pratica, come funziona? Dunque, allora, ci sono due modalità di acquisto. La prima, normalissima, che prevede di iniziare dalla scelta del libro, quindi è possibile andare a visitare il catalogo, che è il catalogo di tutti i libri in commercio, e poi dopo, una volta inseriti i libri che si vogliono comprare nel carrello, si procede a scegliere in quale libreria comprarlo in base alla geolocalizzazione. Quindi se io ho una libreria vicino a casa che copre quindi con le consegne a domicilio un raggio che include anche il mio indirizzo, questo chiaramente lo dice automaticamente il sistema, posso scegliere una libreria che mi porta il libro a casa personalmente, quindi è proprio il libraio che viene a casa mia. Se invece preferisco farmelo spedire con corriere oppure farlo arrivare a un indirizzo lontano, ad esempio io che sono di Firenze e compro per una persona che vive a Palermo, lo posso comprare o in una libreria di Palermo oppure farglielo arrivare semplicemente da una libreria qualsiasi spedendoglielo con corriere. Questo è il primo metodo. Il secondo metodo invece prevede, per tutti quei lettori che hanno una libreria di fiducia o vogliono andare a comprare proprio in un punto vendita particolare, di partire dalla libreria. Quindi si cerca la libreria in cui si vuol comprare, c'è un bel pulsantone con scritto compra un libro qui e a quel punto il sistema tiene in memoria la libreria. Quindi tu puoi continuare a fare la spesa visitando il sito in ogni sua pagina e mettere poi i libri nel carrello che comunque acquisterai presso la libreria che hai scelto all'inizio. Poi chiaramente la puoi sempre cambiare, però questo è un modo per incentivare anche comunque quei lettori che vogliono andare a comprare in una libreria specifica e non sanno come fare per questioni legate a DPCM, lontananza o quant'altro. Ci sono delle realtà bolognesi, visto che noi appunto ci troviamo a Bologna, che collaborano con voi, così facciamo sapere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici se ci sono delle realtà indipendenti appunto del nostro territorio da supportare. Assolutamente sì. Ora il numero esatto di librerie a Bologna non me lo ricordo, però sono sicuramente tante, oltre che Bologna c'è anche Bolognese, Granarolo, paesini limitrofi. me viene in mente una che è comunque una delle più attive della zona di Bologna, che è la Confraternita dell'Uva, che è stata una delle prime ad aderire e a sposare il progetto sin dall'inizio. Loro sono molto attivi, hanno una bellissima pagina piena di consigli e di percorsi di lettura e sono soprattutto molto veloci a evadere gli ordini. Quindi, bolognesi, se cercate una libreria di riferimento, la Confraternita dell'Uva è sicuramente la risposta giusta. Io ti ringrazio tantissimo, Leonardo, e complimenti per la vostra idea e per il vostro lavoro. Grazie, grazie mille per avermi invitato e niente, grazie. Fatevi un giro su Book Dealer e poi fateci sapere come vi trovate.